non mi ricordo che cazzino è Gianfranco di Lumina, porca miseria, non me la metto più. Poco mozzare le due bande, le poco mozzare, anche sulla principale, va su VFO e poi preme il tastino che lo porta su in MHz, perché io non me lo ricordo se a memoria ce l'ha quelle lì, ma dato che è una cosa così banale. Vabbè, le provo, dai, rimanete in ascolto, le provo. No, mi sono diventato una ragazza. Con l'antenna sta funzionando benissimo, non bene. Benissimo, qua arriva 5-9, però tieni conto dove sono io, dove sei tu, quindi va bene. Tra l'altro io non sono neanche uscito e sono qua in stazione proprio, schermato, perché fuori non ho idea neanche cosa ci sia, stia piovendo di uvianza, quindi siamo in condizioni anche estreme. Sì, ma ti ho detto, mi accoppi, a me non mi ha risposto. Sì, appunto. Il coso lì, come si chiama? Tra l'altro non ero al massimo della potenza del portatile. Oh, da dove lo commuto il coso? Perché sono su impostato sulla frequenza, però non riesco a capire come si fa per passare su quella cosa. Devo fare antenna 1, antenna 2, cosa devo fare? No, non c'entrano niente le antenne. Il VFO, se sei sul sub, dove c'è scritto sub, schiaccia sub e ti sposta nell'altra videata. Aspetta un attimo. Ma tu poi non te lo controlla il volume, no? Sei tu? Sì. Eccomi. No, non sta andando bene, fa niente bene. Non mi piaci. Ciao Gianfà. Però è chiara. Andiamo bene, andiamo. Fatti due mazzinetti. Sì, prego. Vai, Lucrezia. Dimmi a Gianni, vabbè Gianni che? Attenzione Gianni Nanni, me la canti una canzone, che mi è? Vai, ascoltatelo il canto che ho cantato, vai. Sto vincendo sempre il premio, tu mi dici che sono un altro. Vai, vai. No, allora già, a parte il fatto che tu parti prima della canzone, lo sai che io non è che sono un bravo lavoro, poi io mi arrangio, dai, a me piace cantare il sassarese, le preferisco di più delle italiane. Sì, già lo so, ma io sono andato all'inizio prima, adesso ho fatto anche i duetti, ho fatto un sacco di roba, vabbè, comunque, ci sono, vabbè, in 50 mi dico che l'ho fatta bene e tu mi stai dicendo che le faccio male. Faccio la proporzione e capisco come. Vabbè, interessante uno che si diverte, poi chi se ne frega. Beh, bravo, non bravo, vabbè, è uguale, dai. Che ha pagato, non è una critica, era giusto per farti capire che un po' cioè parti prima della base, lì. Qualche accorgimento c'è, ma comunque. Ma ci inteso di. Ma ci inteso di meglio. Ehi, no, ma quello lì è un fuori tempo, non è solo tu metti se su un altro. Quello lì è essere fuori tempo, sì, ma quello può capitare all'inizio, poi piano piano ti regoli, no? Quando sei all'inizio devi imparare certe cose. Avanti, Fra. Riprendi, Fra. Capo, sto ascoltando i 144 MHz, 145 adesso. Dove stai ascoltando? 144 MHz, 145. Sì, 145, c'è Claudio con qualche altro. 145, 525. No, 450. Ah, sono i 7, pure io. No, arrivano tutti, invece da Roberto sta facendo molto basso, che radio. Sento pure io, Fra. Sì, sembra che Gianfranco arriva forte. VHF sì, in VHF sì, in UHF un po' meno, là, per la frequenza un po' così. Cazzo, se pensi, ce l'ho nel cassetto, guarda, dentro casa. Vabbè, sto usando un antenino autocostruito che è fuori, dalla finestra sempre. E io ho un antenino in gomma lo stesso. Gappa. Sì, anche Claudio arriva forte. Sì, adesso ha aumentato anche Roberto di segnale, cioè di radio. È entrato anche Marco. Ah, Roberto sta trasmettendo. Sì, vabbè, ne ho patentato. Oh Gianni. Clara. Ehi, dove che stavi cantando? Dove eri? No, sul programma che c'è. Chi è lei che era? Già, vuoi andare ad ascoltare? Cosa? Vuoi andare ad ascoltare? Ma non c'ho la frequenza. Cosa? Che non c'ho la frequenza. 145 450. Sugli attrezzati siamo, no? risposta è Marco. Sono contento per Roberto, là, ce lo merita, è bravo, va. Ecco, poi non sapevo neanche che stessi studiando. Ma già c'ha il nominativo, ha già, sì. Non so se se gli hanno dato, forse sì, forse. Già fa capo. Boh, siamo là dentro pure io. Così poi ci possiamo mettere le radio, da. Volevo prendere un 140, un 140 no, un 430, un 450. Neanche le SVL hai? Sì, sì, sì. Quindi le puoi detenere comunque, no? Sì, ma no, il ricevitore sì, ma non il ricetrasmettitore. Quello è. Solo il ricevitore quindi. Ce lo dà un po' la SWL. Me l'ha fatta fare Claudio. Io l'ho dovuto rifare perché non me la ritrovavo più. Addirittura ho chiesto di una ristampa e non risultava più, figurati. Ma sono passati 40 anni. Ma io ce l'ho a casa appesa nel muro, un quadretto l'ho messa. E tutti i pagamenti ho anche a fianco, tutti i bollettini pagati del baracchino, là. Tutti gli anni che ci sono. E vabbè, mi ero mancato un po' di anni perché purtroppo mi tagliavano il cavo e allora sono stato costretto a staccarne tutto. E vabbè, poi da quando ho cambiato da analogico a digitale, ho riprovato, grazie a Dio non ho distrutto più a nessuno. Eppure vedi, scatta, qualcuno ancora ci lamenta di disturbi. Adesso no, in digitale non credo, poi si lamentano. Scatta, tu vedi l'amico nostro, quello che abita vicino a noi, Natale. Magari c'è un'antenna olfratica, sicuramente hanno una TV vecchia, lo decoder esterno, sicuramente è per quello. E magari il disturbo lo prende più che altro la televisione vecchia, dai. Sono televisioni da due soldi. Già, riprendi, che io vado a salare, una sciacquata, dai, che tra un po' usciamo. Davvero? Oggi mi tocca, In crociera sì. Cosa? In crociera? Di crocetta, non di crocetta, domenica devo andare. Altrimenti, quando eravamo ragazzini. E lo vasiniamo nella mia giostra. Siamo in crociera, è fantasia. Ma te mi ricordo un giorno, ma tantissimi anni fa, ti parlo, poi avevo avuto, non ne so, 17, forse 16 anni, non mi ricordo, ti dico una balla qua. Comunque buoni sono passati 30 anni, a luna e sole, questo mio amico cosa fa? Sale sull'albero delle palme, le taglia, belle. Dopo un po' arriva questo signore brutto bastardo con un coltello, ci ha minacciato, iniziamo a scappare. Poi se gli ha preso lui le palme, tutto maledetto qua. Quel mio amico si è tutto punto, perché sa che le palme hanno le come si chiama? Le spine, ti pugge e ti fa un bel male. Sì, noi ti vediamo un'altra di. Cazzo, avevo 3 giorni il miglio mezzo secco, come lo toccavo mi indemoniavo, mi dava un male cane. Madonna, ma fa un sacco male, io mi ricordo, va. Mi me ne rozzo dopo la va, pensa giù, a pensarvi. Perché ci dovevi mettere le mani in mezzo e ti pungivi per prendere quelle gialle, vedi? Cazzo, che ricordi, va. Però va, voi la volete, voi tornare indietro, va, provo a fare un'altra volta l'ebbrezza. Il cuore proprio dalla palma, il cuore, sì. Alla base hanno quelle spine micidiali, anche quel cavolo di pianta, come si chiama? La yucca? Un tronchetto da applicità, dai, anche qua c'è delle spine che fanno male allo stesso. A voglia, poi ti rimane il dolore, quello. E se sono velenose, se ne so. Avanti Gianni sta ascoltando. Beh, mi sa che fra un attimino mi assento. Vado a lavarmi la pedifella, ci sentiamo dopo. Dai, io mi faccio un po' di ascolto con le altre frequenze, là. Sì, a dopo, ciao. Ok, Gianni, tu vedi? Ehi, dimmi. Ho detto, ascolto. C'è sempre da imparare dalle radio mature, dai. Sì, vabbè, ma sarà perfettamente imparato come 27. Sì, quelli sono senza punti, sono in diretta, dai. Quello è il canale monitor di Sassa. Che canale è? Vabbè, prima era 145 e 525, adesso è diverso. Sì, ma cos'è? Io adesso sto usando un WFO, dai, non so a che canale appartenga. Manco io, non lo so manco io, fra. Capa, purtroppo non mi segna o uno o l'altro. Se metto i canali mi segna i canali e non mi segna la frequenza e viceversa, quindi non so il canale a che frequenza appartenga, capito? Una volta che li memorizzi, che li metti, gli dai un nome, non ti dà più la frequenza. Sì, so come funziona. Io ho avuto il Jupiter, che era uno dei migliori, che c'era, costava 1.500.000 lire il portatile, quello che ho per lui. Che marca era? Jupiter. No, non lo so, non lo conosco. Era uno dei migliori, allora. Mi si è bruciato carichetti, se no guarda, era bellissimo come apparecchio. Ci aveva fatto le bande laterali. Mio mio, si aspetta perché l'ho lasciato acceso sicuramente questi giorni, quindi è a zero. Ma cos'è, portatile? Sì, sì, è un Polmar. Ah, no, no, un portatilino. Perché a volte lo usiamo quando facciamo fuori strada, amico, usiamo il baracchino oppure usiamo questi portatilini qua. E fai 140 e... 340 e poi va anche sui 500, non so che banda sia. No, 500 non sono mai stata. Arriva fino a 520, però non so chi ci sia quelle zone lì, non dovrebbe mai nessuno. Io sono frequenze di telefono. No, forse come l'ho sbloccato, perché secondo come lo accendi ti chiedi una password, tu gli dai una password e lo sblocchi, perché è destinato per vari mercati, sia europei che americani, sicuramente una banda americana. Ah, è collassato, questo è proprio a zero, la batteria si è spento. Se lo metto a caricare mi disturba un sacco, il caricabatterie mi disturba, mi fa salire il QRM, quindi lo metto a caricare da un'altra parte. Da. Ma io c'ho un ricevitore, bellino, portatile sempre. Certo, ma questo è un giocattolino. Bah. Dicono che esce con 10 watt, ma non penso che ci arrivi a 10 watt. Polmar, conosco la marca ma il modello quello lì non lo conosco. Questo è Polmar DB10. E dove sarebbe Dino? Lo fanno, penso lo faccia anche qualche altra marca. Alla fine sono come i bei baracchini, cambia un po' il frontalino, ma l'interno sono tutti uguali, quelli Pluto, Galaxy e cose varie, Samurai, cose varie. Mi ha detto Polmar che vorrà vedere. Polmar D come Domodosso, la B come Bari 10. Lo danno con due antenne, una piccola e una da una settantina di centimetri, credo sia 70-80 centimetri. È anche abbastanza costoso, da 91,50. Ma io l'ho pagato di meno, l'ho preso da internet anch'io. Qua costa 91,50. Ma te lo metti a caricare? Sì, sì, è per lì. E diciamo che più o meno sono uguali tutti qua. Però è carino, ce va bene. L'ho messo lontano, almeno non disturba. Fa un sacco di scariche, deve essere il caricabatterie, disturba parecchio. Beh, ce l'ho già un paio d'anni, dai. Sì, l'ho visto, non è bellino. Se invece di diminuire è aumentato il prezzo. E dipende dove li prendi anche. Non mi ricordo, Media Globo, ma direi una fesseria. Dove trovare addirittura lo scontrino, magari c'è. Tanto mi vuole fare l'altro, fra. Però quello lo puoi usare solo per dicembre, basta, se non va la patente. Lo uso in PMR, a volte quando facciamo le uscite uso il PMR. Quei canali sono liberi. In PMR su che frequenza trasmettete? Chi? In PMR su che frequenza trasmettete? Aspetta che li cerco, dovrebbe avere da qualche parte le scritte, vediamo se trovo il libretto. Allora, canale 1 è 446.000 e così via. E canale 7? 7 mi dà 446.081, può essere, o 075. Forse 081. Ciao Franco. Oh, ciao Giulio. Buonasera. Forse tu ci puoi aiutare. Il canale 7 del PMR. 446.081. E quindi già, perché qui l'avevo corretto, vedi? Era sbagliato, l'ho corretto, 081. Sì, grazie Giulio, come va? Bene, bene. Ma io in questi giorni sto sentendo sul canale 1 a 446.006 c'è qualcuno che lo sta utilizzando per lavoro. perché sento, tu porta quella bancale al parcheggio 5, per dire, no? Frasi del genere. Sì, Giulio, ho sentito anch'io sul canale 1, non arrivano forti qua, i debolini, però sento che lo stanno usando per qualche lavoro. Poi sento anch'io quelli del centro, la promocamera dei parcheggiatori del centro UB, dei vaccini, adesso non li sento più che sono andati via da là. Sì, anch'io quelli sentivo, ma quelli erano in LPD però, quelli erano 433-075. Sì, sì, l'avevo memorizzata la frequenza, non me la ricordo, la verità. Ormai andavo lì, l'ho canalizzato, mi sembra che fosse sul 14, l'ho messo sul portatilino, sul canale 14, però c'è di male che quando metto il canale non vedo la frequenza, quindi alla fine come fai a ricordartela? Ciao Giulio, buonasera. Ciao Gianni, buonasera. Beh certo, bisogna scriversela, se non si vede la frequenza bisogna scriverla. Comunque 433-075, ma quello è il primo canale, cioè canale 1 LPD, che poi tra l'altro lì non è che si può entrare perché ci vanno i radioamatori. Beh capo, no, faccio l'ascolto e basta, io se capita, se sento qualcosa di interessante ascolto. Adesso vedi, ci sono i nostri amici che stanno parlando su un'altra frequenza, sul 144 del Sfici, adesso non mi ricordo. Stavo ascoltando poco fa. Ho sentito anch'io, sì. Ho sentito anch'io. Sì, beh certo, vabbè, siccome l'LPD anche noi possiamo entrarci, però si sa, dobbiamo utilizzare sempre il Brundi praticamente, perché se no magari possiamo interferire se qualcuno utilizza ad esempio l'antenna esterna o qualche apparecchiatura un pochino più potente, possiamo disturbare gli amatori, se no anche noi possiamo utilizzarlo nelle PD sino al canale 20, perlomeno dall'1 sino al 20. Sì, è che dovrebbe essere con l'antenna fissa, no? Invece no, i nostri sono con l'antenna col gommino, possiamo smontare, attaccargli quello che vogliamo. Siamo un po' fuori norma, dai. Beh certo che sì, quando è così no, non va bene. Non va bene. Avanti Gianni. Io guardo, da quanto tempo ero che non usavo, il PMR non mi ricordo più la frequenza, figurati. Non ho capito, lo già avevo il volume troppo basso, non ho capito. Ho detto, da quanto tempo ero che non usavo PMR, non mi ricordavo manco più che frequenza era, canale 6. Ah, vabbè, non lo stiamo più usando per forza. Noi ci dimentichiamo troppo spesso delle cose, comunque. È una frequenza che si potrebbe anche utilizzare con i dovuti voti, chiaramente. Non con antenne e balle varie come fanno diverse persone, comunque va bene lo stesso, ognuno faccia come crede, sarà lui il responsabile di se stesso. Vabbè, comunque 081 quello, che poi in automatico si aggiunge 081.25. Avanti Franco. Sì, io me lo sono ricordato perché qui avevo scritto degli appunti, dai, quando stavo memorizzando, perché io questi me li ho tutti memorizzati praticamente, dall'1 all'8, e forse addirittura hanno aggiunto anche, non so, qualche altro canale, se non sbaglio, forse fino a 10 possiamo arrivare, se hai qualcosa giù. No, sono io ho 8 canali solo e basta, sono 8 canali e basta, niente di più, gli altri non si possono assolutamente utilizzare, perché se no saremo fuori, insomma, fuori norme, poche parole, sì che siamo sul canale 8, saremo sul 446.093, canale 8. Canale 6 invece 446.068 e così via, dai. Io ce li ho tutti iscritti per frequenze. Allora me li correggo tutti. Allora il canale 1 mi ha detto che 446, io per esempio qua c'è scritto 000, invece no. No, è 446 sempre, no? 006 e poi in automatico c'è 25, anche punto 25. poi c'è il canale 2 che è 446 018, in automatico 0.75. Poi c'è il canale 3, 446 031, in automatico 0.25. Poi il canale 4, 446 043, in automatico 0.75. Il canale 5, 446 056.25. Il canale 6, 446 068.75. Il canale 7 l'abbiamo già detto, è quello dell'81. Poi c'è il canale 8 che è 446 093, in automatico poi 0.75. Ecco, grazie, li ho tutti corretti perché erano tutti sbagliati praticamente. Ok, vabbè, comunque è così, e non ci possiamo fare nient'altro diversamente. Comunque sono quelli solamente che noi possiamo utilizzare, sempre naturalmente con i dovuti voti. Io, diciamo, in un certo senso sono fortunato perché ho trovato a casa un varco che mi metto in quella determinata posizione e te lo dico subito dove, al centro del letto, in camera del letto, seduto al centro, e riesco a farmi sentire e a sentire gli altri, col gommino, tranquillamente, senza nessun problema. Mentre invece se mi sposto anche di un solo metro, boh, magari perdo tutti, o quasi tutti. E funziona così, purtroppo questa frequenza è così. Attaccano la tenda della 27. Qualcuno ha fatto anche quello, ciao Fra. Qualcuno ha fatto anche quello, ma non faccio un capo di ghisso io. Avanti Franco di Sorso. Eia, buonasera a tutti. Mi è sembrato che c'era Franco. Forse è doppio rum, Gianni doppio rum, e tu. Vabbè, buonasera a tutti comunque, dai, avanti Franco. Ciao Franco di Sorso, come va? Bene. Allora, vediamo un po', ti rilancio Gianni per i saluti, avanti Gianni. Ciao Franco, tu bella. Adesso ci manco quasi 43, 44 anni. Ma le origini rimangono, Fra. Ciao, buonasera. Glielo credo. E chi si dimentica? Lui dove ti sei fatto grande. Ma si è diventato un 5. E io mi svegliavo la prima, perché mia madre era di Sorso. E poi ci sono anche nato qua. Ah, così. Infatti. Avanti Giulio. Ok. Dunque tu non sei nato a Tortobella allora, Fra? No, sono nato qua a Sorso. Poi sono piccolino che non capivo niente ancora, io ero in fascia. Se ne sono andati da qua, se ne sono andati direttamente a Tortobella. Ok, ho capito, sì, va bene. Va benissimo, non c'è problema. Tutto il mondo è paese, figurati. Avanti Franco Sassari. Sì, Franco Sorso, per lavoro lì a Tortobella? No, lavoravo giù a Lening. No, non tu, la tua famiglia, tu di piccolo ancora non lavoravi, spero. Dico, la tua famiglia ti è trasferita lì per lavoro. Capa, mio padre aveva preso il terreno da Leicester, era segnatario. Bene, io ho degli amici che hanno, addirittura ci hanno riscattato la casa, voi no? Sì, ci abbiamo tutto ancora, ci abbiamo. Non so se li conosci, Sini di cognome. Per Renato stai dicendo? Sono un po' i fratelli, boh, non lo so, Carlo e cose varie. Già sono loro. Caspita, se li conosco. Ci ho anche mangiato in quella casa, ogni tanto ci invitavano. Loro c'hanno la palazzina su. Non lo so, boh, mi ricordo quella zona lì. Sì. Nelle palazzine loro erano. E ci sono ancora. C'è ancora quell'appartamento. Perché Renato ogni tanto lo vedo, gli altri no. Gli altri sono andati fuori, oppure sono tanti anni che non li vedo più. Qualcuno lo vedo, dai. Ormai ci stiamo un po' tutti perdendo con questa porcheria. Prima ci si incontrava, qualche spuntino ci faceva in campagna. Poi sono belle case anche quelle, ottime case. Avanti Gianni. Sì, io volevo ricordare a Franco che si è lasciato un pezzo di cuore là. Va bene, sai cosa è? Già, è vero, che io volevo andare lì a abitare, e mia moglie non ci ha voluto andare, e ha preferito qua, ma allora ci abbiamo fatto la casa qua e siamo rimasti qua. Sì, vabbè, tu posso fare l'altro qui, mi interessa se stai bene insieme con la tua famiglia, da pure. Appunto, appunto è così, vabbè, ma ci scendo ogni tanto. A vedere la situazione. Avanti, Giulio. Ok, bravo. Ascolta, senti, ti ho conosciuto là quello che vendeva legname, Maria, lì sotto Bella. Aspetta, fratello era Nino Masia, poi c'era l'altro, era Antonio, mi sembra, Antonio Masia. Beh, il nome io non me lo ricordo, so che vendeva legno e basta, perché qualche volta c'ero sceso per vedere, ma non ho mai comprato lì, perché non mi piaceva la qualità del legno che vendeva. Cappa, sì che ne ho conosciuti, abitano, allora, una, due, tre case più su di lui, della nostra, abitano. È morto pure quello, lui e anche il fratello. Ah, beh, quello non lo sapevo. Sì, ma per dire, no, io c'ero andato così per vedere il materiale, ma sì, ne aveva, perché ne aveva il materiale, però non aveva secondo me una prima scelta buona, e allora io ero abituato a comprare legno di primissima scelta e non ho comprato mai. Ci sono sceso una seconda volta per vedere se avevano cambiato il sistema, se avevano portato del materiale freddo, no, peggio che mai, tutto bagnato, tutto, no, lasciamo perdere, non ci sono più andato. Avanti, Franco, di Sassari. E quindi dove ti servivi al meglio, Giulio? Strada Legname, l'unica era Strada Legname, sì, ai tempi di Naitana c'era anche Naitana, lì via Giulia Struni, anche lui aveva del materiale, però il numero uno per Sassari e provincia era la Strada Legname, e poi tra l'altro Strada Legname aveva anche una succursale a Oristano. E via. Come ognuno c'è sui canali dove si trova meglio, poi alla fine, come noi invece ordinavamo le verghe d'alluminio per fare le finestre, gli infissi, ma anche lì a volte c'erano delle ditte con profili diversi, guarnizioni diverse, e a volte anche il colore, l'anodizzazione era diversa, c'erano delle ditte più o meno serie, dai, come il legno praticamente. Avanti, Gianni. Sì, come per tutte le cose, dai, bisogna saperle scegliere naturalmente, quando si fanno questi lavori bisogna prendere il meglio, anche perché poi se usi materiale che non serve, i clienti ti abbandonano, non ritornare più. Scusate, ho solo il telefono. Già, non è il problema che il materiale anche non serve, il problema è loro, il materiale lo tenevano fuori, alle temperie, e il legno si rovina, così, anche se tu ci metti legno buono, si rovina lo stesso, perché non avevano campannone per conservare il materiale, perché io vedevo cami che arrivavano lì per comprare e se ne andavano vuoti, se ne andavano, se ne tornavano indietro vuoti, vuol dire che non l'hanno comprato, ma se l'hanno fatto solo un capannoncino piccolino per mettere i materiali, i macchinari per tagliare la legna, poi basta, poi del resto secondo me non serviva a niente, perché era sempre fuori il materiale. Avanti, giù. E infatti il materiale, a parte il fatto che era tutto legno di seconda e anche di terza scelta, poi tra l'altro lo mettevano fuori ad aperto, dunque pioveva d'inverno specialmente, ma anche d'estate cade l'umidità della notte e anche quello sembra, e oppure quando c'è il sole cocente che si stacca le tavole, no, non va bene così, no, non è così che si deve comportare uno che commercia legname, il legname deve essere riservato, messo sotto i capannoni come si deve, al chiuso e al asciutto soprattutto, in modo che il cliente arriva lì, vede il materiale come si deve, lo compra, ma se il legno è scadente vendi poco, anche poco e niente, infatti non è che è durato molti anni, per cui però evidentemente c'era qualcuno che comprava, cosa vuoi che dico? Io no, io non ho sempre comprato legno di primissima scelta, perché se vuoi fare un lavoro come si deve, innanzitutto devi utilizzare e usare il legno di qualità, e non solo il legno di qualità, tutto il resto, anche vernici, ferramenta, colla, e tutto quanto di prima qualità deve essere, se vuoi lavorare bene, se no fai pasticci e basta, anche se magari puoi fare bene il lavoro, però hai utilizzato materiale scadente e hai fatto pasticci. Avanti Gianni. Sì, io per la parte vi saluto tutti cordialmente, devo andare giù a portare il cane. Dai. Ci sentiamo, grazie per il buona serata e buona continuazione. Ciao. Ecco, mi sono orientato. Sì, salutami anche a Tyson, ciao Gianni. Grazie, ciao. Ok, capo, vai. Ciao Gianni, buon proseguo, buon tutto, ci ascoltiamo le prossime. Avanti Giulio. Ok, ciao Gianni, ci sentiamo, dai, le prossime. Capito Franco, per cui non era, non lo so, sì, poteva anche andare bene a chi non pretendeva legno buono, ma che poi ce ne sono tanti di questi che vanno a comprare legno scadente proprio per risparmiare, perché costa di meno, per cui però di meno lo paghi e di meno vale. Avanti Sassari Franco. Cosa cambiava proprio la stagionatura, cosa cambia? No, innanzitutto la qualità del legno, se il legno c'è la prima scelta, la seconda, la terza e così via, a volte anche la quarta e anche la quinta, dipende dal legno che uno compra, però il legno di qualità è sempre meglio, il migliore di tutti in assoluto è quello di prima scelta, chiaramente, ad esempio parlando, tanto per fare un esempio, di pino resistente, il pino resistente di prima scelta è un legno che quando lo tagli rimane stabile, non si contorce, non si piega, allo stesso tempo ha pochissimi nodi e i nodi sono anche di quelli piccoli, mentre invece se tu lo compri di seconda scelta, incominciamo con la seconda scelta o addirittura con la terza, sempre parlando di pino resistenza, quando tagli fai tagliando e piegandosi, per dire, no, come perché ha la fibra che non è di quella compatta, quella ben essiccata come si deve, oppure i nodi madornali grossi come un fondo di bottiglia, e sono una porcheria così, il legno così non va bene, e così vale per tutti gli altri legni più pregiati anche, no? Se poi parleremo di rovere eccetera, ancora peggio in specialità, oppure di altri legni tipo il Douglas, tipo il palissandro, il mogano, tutti questi legni qua, noce eccetera eccetera, devono essere tutti legni pregiati che costano un sacco di soldi e dunque deve comprarli e devono andare bene, non si devono spaccare dopo o scollare dopo un po' di tempo che li hai fatti perché il legno è bagnato, non va bene assolutamente. Vai Franco il sorso. Sì, così proprio. Eppure a pensare che ci avevano, c'hanno terreni, ci sono i terreni lì che possono fare campannoni grandi, anche possono fare, perché lì girarci anche il camion dentro, possono fare, eppure non l'hanno mai fatto, hanno fatto solo questo piccolo campannoncino solo per i macchinari, per lavorarci loro quando stava piovendo. Sì, appunto, lo so com'era, no? Non andava bene, infatti non è che avesse tanti clienti, aveva la peggiore qualità di falegname che andava a comprare da lui perché costava di meno, ma solo esclusivamente per quello. Però poi ti puoi immaginare, Franco, non è possibile poter avere un buon prodotto se hai il materiale di scarsa qualità. Avanti Franco, Sassari. Mi ricordo, il palissandro era un bel legno, andava sul rossiccio, marrò, così era un legno colorato già. Sì, è un legno colorato e andava sullo scuro anche, tra l'altro, certo, rossiccio scuro, molto bello, pregiato, e poi erano legni che costavano, sono arrivati, io li ho conosciuti addirittura 8 milioni a metro cubo, non era uno scherzo quando si parlava della lira, 8 milioni a metro cubo, e tu immagina, ti compresti un paio di metri cubi di quelli, aspetta, voglio vedere cosa presenta la gente, perché quando si facevano quei lavori, i lavori costavano un occhio della testa, perché giustamente era un legno pregiatissimo, però se non è buono, se non è di prima scelta, non è che gli puoi presentare un mobile fatto così così ad un cliente, ma vuoi scherzare, ti rovini la fama, il nome, e poi lavori una volta non lavori più, avanti socio. Ecco, e infatti non è che hanno fatto fine bella, hanno fatto, vabbè che lui il padrone proprio era molto malato, anche era, e quindi lavorava lì, erano gli operai, lui veniva ogni tanto e qualcuno dei figli c'era, e in più c'era il fratello che Nino, che abitava lì, che era il padrone di tutto il terreno, era, e basta, ma poi del resto, infatti è morto lui, il fratello di Nino, ed è morto tutto. Beh certo, sì, infatti, insomma, hanno fatto qualche anno, ma niente di particolare, comunque ritorno a dire, il numero uno a Sassari era la Strada Legname, quando c'era il signor Corda, lui era un grandissimo intenditore di legname, ma veramente un grande intenditore. Quando gli portavano qualche partita di materiale che non gli andava, la rispediva indietro, no, non ne voglio dire questa cosa, tu a me mi dai il legno che io ti ho chiesto, non ne voglio assolutamente io di questo materiale, perché a me qui me lo lasciano e fa legnami, perché qui vengono e fa legnami quelli che sono interessati a comprare materiale buono, non vengono le persone di quelli che vogliono risparmiare, assolutamente no. Capisce cosa voglio dire? Per cui lui era, ripeto, il signor Corda era una persona che poi tra l'altro non era nemmeno il padrone della Strada Legname, perché il padrone veramente erano continentali, erano, però lui era un direttore lì, un gestore, diciamo, che per anni ha lavorato lì, in quel campo lì, che conosceva tutti i tipi di legno alla perfezione, e se qualche falegname aveva qualche dubbio andava lì e chiedeva a lui ci spiegava per filo e per segno com'era e come non era, e quello che faceva, e i difetti che lo faceva, e tutte queste cose qua. Era veramente molto, ma molto preparato, signor Corda. Avanti, Franco Sassari. Capo, dove ce l'avevano il deposito? In che zona era? Inizialmente a Sassari ce l'aveva su, all'angolo di Viale Dante, su in cima, in alto, dove c'è il parcheggio adesso. Prima c'erano lì, c'erano i capannoni, c'erano, dunque il legno era tutto all'interno, eccetera. E io già da quando io lavoravo da Fratelli Casu, perché ho imparato lì dalla vita Fratelli Casu, già andavo io a scegliere il materiale. Metri cubi di legno per volta, perché il principale mi mandava, mi diceva vai Giulio scegli per dire non so un po' di materiale, e cosa scelgo? Un po' di tutto, e io gli sceglievo anche 50-60 metri cubi di materiale, dove lavoravo io era una ditta dove c'erano 70 operai lavorati, sì che materiale se ne consumava, c'erano 13 ragazzi, c'erano due uomini di fatica, il meccanico per la manutenzione dei macchinari, il seganastro, il seracircolare, il doppi, scoliciatrice, tutti i macchinari di falegnameria, insomma, ecco, per dirti, oh, se non c'erano problemi. E dunque io al signor Corda lo conoscevo molto, ma molto bene, lui conosceva molto bene, quando andavo lì mi faceva i complimenti, addirittura mi portava lì all'angolo di via 4 novembre, in quel bar che c'era io, dice sì, senta che andiamo a prendere un caffè, e lo faceva, ti posso garantire, senza nessuna presunzione, che lo faceva solo con me e non con altri, perché sapeva, mi conosceva, perché io gli avevo parlato chiaro e tondo di cosa intendevo bere quando andavo lì. Capisci, Franco? Avanti. Sì. Beh, una persona competente, ed avanti andiamo un altro, altrettanto competente, alla fine va in sintonia, ti capisci al volo. E c'era qualcuno che voleva entrare sotto, vediamo un po', facciamo un po' di bianco, se no riprendi tu, Franco. Mi sa che non ne ha voglia. Io sapevo che la Strada Legname era quella di Porto Torres, quella vicino a Porto Torres, solo. Non sapevo che ce n'era un'altra a Sassari. Però no, aspetta, ha iniziato a Sassari, lì su Viale Dante, su proprio in cima, alla fine, proprio alla fine del Viale Dante, dove c'è il parcheggio oggi, di fronte c'è un rifornitore di benzina. Cioè, poi si erano trasferiti a Porto Torres, a Libidriazzi, si erano trasferiti, e anche lì hanno lavorato per tantissimi anni, hanno lavorato, lì era ancora più grande come spazio, dunque era ancora più attrezzato, ti puoi immaginare, per cui sono andati andando e migliorando, non erano certamente come era la ditta Masia, assolutamente no, era tutta un'altra pasta, era tutta un'altra Sicilia. Avanti Franco Sassoli. Un attimo, riprendi giù. Ok, riprendi tu allora Franco Sorso. Allora io lo sapevo che io sono tanti anni che la conosco quella sardomagnana di Porto Torres, a parte che ci andavo tanti anni fa, compravo anche, vendevano anche il carosene, li vendevano, facevamo, salendo da lavorare, compravo anche i bidoni del carosene. Sì, mi sembra che c'era stato un periodo che vendevano anche quelle cose lì, sì. Vabbè, non erano cose che interessavano a me, per cui non è che mi sono informato più di tanto, però c'erano gli operai, tutti, appena che mi vedevano, mollavano tutti quanti a me, perché io quando sceglievo il legno, subito le lasciavo i soldi per la birra, con la tazza di birra le lasciavo sempre, tutte le volte che andavo, anche per sola informazione, perché alle volte andavo per vedere che tipo di materiale trovavo, perché magari dovevo fare un particolare lavoro e volevo conoscere cosa potevo avere con certezza per fare un determinato lavoro. E allora lì, appena che mi vedevano tutti, e mi davano tutte le informazioni e anche di più di quelle che chiedevo, no? Non c'erano problemi, perché erano tutti amici miei, e dunque, però io devo essere sincero, no, non per deprontarmi, ma gli ho sempre lasciato la mancia, sempre. A loro la cassa di birra, quando andavo io, non gli mancava mai, non gli è mai mancata, però. Se trattano bene, è ovvio che sono anche ricompensati, la mancia bisogna lasciarla, a parte che sono anche gli operai, sono il padrone, e va bene. No, ma addirittura, quando c'era la partita di materiale appena arrivata, sai, quando è arrivato c'è ancora più scelta, no? Allora cosa facevano? La sera, quando chiudeva, qualcuno veniva e mi avvisava, oppure addirittura mi telefonava direttamente, guarda che è arrivato ad esempio il Peach Pine, e com'è? Bello, tavole così e così, va bene, sai cosa devi fare? E loro già capivano, prendevano le tavole di giuri e rimboscavano sotto le catasse, capito? Perché tanto le catasse le spostavano da un posto all'altro, allora sceglievano le tavole migliori e li imboscavano, e quando andavo qualche d'un altro dice questo, no, è già venduto quello, capito? No, devi scegliere da qua perché lui è già venduto, ecco come funzionava, fra. Diciamo che erano tutti fatti a mano mia, erano questa gente, dai. Avanti che vuole entrare. Brecco. Andiamo, cazzo. Avanti. Vabbè, io ho fatto Brecco, poi c'era anche Luca, non so, vi stavo ascoltando, a Giulio e a Franco. Ciao Roberto, com'è? Io c'è zero, Romeo, Quebec, cos'è? Dai Roberto, stiamo seguendo un po' tutti, dai. Piano piano, l'unico uno, c'ero Giulio, c'ero anch'io prima, Franco, avevo l'altro Franco di Sorso, a Roberto lo stesso, la radio è un po' bassina nel confronto agli altri, Roberto. Però dai, adesso è andato bene, abbastanza. Ora secondo dove mi sposto con la radio, io gommino, non ti sento, E vabbè, già sistemiamo tutto, dai, abbiamo fatto delle cose, dai. E vabbè, non si può dire qua, ve lo dirò al momento opportuno. Ma hai già nominativo, Roberto, sì? No, il nominativo ti ha dato un pochettino, vabbè, ma all'ultimo momento la patente, se no forse ce l'avevo anche oggi, adesso lunedì me lo danno. Vabbè, comunque sta iniziando già a fare i primi passi, avanti Giulio, riprendi. Ok, ciao Roberto. Ben arrivato, sì, stavamo facendo quattro chiacchiere a riguardo della vecchia attività che facevo, eccetera, anzi più che altro della ditta dove andavo a comprare, eccetera. Avete considerato che Franco di Sorso abitava proprio nella località dove c'era un rivenditore di legnami tanti anni fa, cioè ha abitato, non è che ha, per cui è quello che ho voluto ricordare a Franco, e lui mi ha confermato di sì. Vabbè, bene, vediamo se è diventato Franco di Sassari, se no lo prendi tu poi Luca. Intanto ti saluto, avanti Franco di Sassari, sei rientrato? Sì, sì, capo, ero al telefono, scusate. Ciao Roberto, ben rientrato. Sì, anch'io ti stavo ascoltando, all'inizio del bacino di radio, dopo forse hai fatto qualche modifica e ti ascoltavo molto bene. Vabbè, diciamo la radio non l'avevo mai utilizzata, su quelle bande lì devo ancora provarla, cercare di, mi hanno dato dei consigli gli esperti, mi hanno detto cosa fare, poi ci vuole un'antenna più performante sicuramente. Ok, vediamo se, comunque saluto tutti, Giulio, i due Franco, Luca, vediamo se è entrato Claudio, avanti Claudio, Giulia, vabbè, riprendete voi a chi tocca, andiamo più lontano, avanti Franco di Sorso. Dai, ciao Roberto, io ti stavo ascoltando lo stesso, all'inizio mi arrivava a fondo scala, però radio non ce n'era, e poi hai aumentato la radio e ti sei abbassato il segnale, ma comunque va bene lo stesso, anche nelle condizioni dell'antenna, bene mera. E io penso che quando la impari con la radio va bene. Allora che Giulio? Ok, certo. Va bene così, Luca, riprendi. Sì, dai, era giusto, sono entrato che tanto sono le 8 e sto per scappare. Vi salutati ragazzi, io tra un po' esco. Ah, io sto per sentire Roberto, dai, stavo ascoltando in quella frequenza. Però Roberto, dai, mi sa che ce la faccio un pensierino pure io. Mi metterò a studiare dal nuovo anno. Magari mi dai un input da dove iniziare, perché non so ancora dove iniziare. Vai due mutu, qua ma è drogato. Drogato sarai tu, e hanno più giudizi. Luca è qua. Ciao Natali. Noi a Natali tu sei qua, tu sei sotto al ponte, facciamo il vaccino, e zitto, qua. Ma che pure tu lo sai? Comunque Luca, non c'è problema, c'ho un sacco di appunti, ho fatto una specie di cosa, di riassunto di tutto quello che ho studiato da lì, grazie a Dio è andata bene, ma non ti preoccupare, se abbiamo tutti i supporti che ti possono dare, ce li abbiamo, cioè che ti possono servire, ce li abbiamo. E ritornando a lui, all'inizio ero a piena potenza, alla fine ero con 5 watt, la differenza era questa. Ah, capo, immaginate che ti sia abbassato di potenza. Ma andava bene lo stesso, però del radio ti sentivo. Poi sono stati regolati i microfoni, eccetera, eccetera. C'erano delle cose che bisognava regolare. Naturalmente quando non le utilizzi con le bande di frequenza devi stare un po' alle prime armi, dai, come tutti, devi imparare. È una radio un po' complicata, però piano piano adesso come ci mettiamo l'antenna e sistema tutto, cercherò di iniziare dall'elementare per arrivare poi, come ho fatto un po' con la banda cittadina, a ricrescere un pochettino. Non tanto, ma un pochettino basta, dai. Poi c'ho dei bravi insegnanti, c'è Claudio, c'è Marco, c'è Gianfranco, c'è Fabrizio, diciamo persone molto disponibili e con le loro cose, informazioni e esperienze mi hanno dato già qualcosa di buono. E beh, io sono zero là. Lalla è nuovo nominativo, infatti tra invece di essere zero lalla. E beh, non è poco. In pratica Robert stai andando avanti con i professori per adesso. E certo, io sono elementare, quelli sono già le superiori e qualcuno è anche all'università. Va bene. Allora sei Giulio. Ok, già lo sa Roberto come si deve comportare, non c'è problema, no. Non è certamente uno stupido, è una persona capace in tutto, per cui no. Già sa benissimo come deve andare avanti per gradi, insomma. Bene, questo è importante comunque saperlo. E poi c'è anche Gianfranco che ti può dare una mano, Roberto, per quello. Che sei così un lapsus hai avuto, anche se mi è peccato di lui anche, poc'anzi quando hai citato i mostri della nostra radioamatorialità. Ok, riprendi Roberto. Vabbè, mi sono probabilmente dimenticato, ma assolutamente Gianfranco, soprattutto per come dice di segnali strani e cose. Non ce n'è per nessuno, poi c'è l'altro specialista in antenne, l'altro come tecnica, diciamo radiotecnica, diciamo c'ho insegnanti di tutte le materie, bravi e bravissimi. E certo che sì, ci mancherebbe altro, già lo credo, poi tutta gente è capace che sa il fatto suo, per cui sei in buone mani, insomma, ecco, sei in buone mani, non c'è problema. Va bene, riprendi Franco di Sassari. Sì, K, mi approfitto del mic e vi saluto, grazie per la compagnia, per la chiacchierata. Ci si risente alle prossime. Ok, grazie Giulio, a te ancora il cambio. Saluto a Franco, da Sozzo, Roberto, Luca, non so se ci sei ancora, Natalino che ci ha fatto una bella bussata. Avanti a te Giulio. Ok, ciao Franco, grazie per la chiacchierata, ci sentiamo domani se coincide, sperando che possa coincidere, per cui va bene così. Ti mando avanti Franco di Sorso per salutarti, avanti Franco, ciao Franco di nuovo, un abbraccio, ci sentiamo, vai Sorso. Kappa, ciao Fra, buon corretto, buon tutto, vai, ce ne ascoltiamo alle prossimine. Avanti, vabbè. Ciao Fra, come hai sentito? Come al solito, sempre un piacere. Buon tutto, buon proseguo di serata. Ok, chi tocca? Luca, avanti Luca e poi Natalina. Ok, dai, io ne approfitto e vi saluto tutti che sto uscendo. Ciao, buona serata e alle prossime se Dio vuole. Ciao, ciao. Ciao Luca, ciao Franco, alle prossime, grazie per il questo, buonasera a tutti. Vedo io per salutare a Natalino che non l'avevo fatto. Franco di Sassari, non so se ci sia ancora, ti volevo comunicare che forse lo sai già, che per avere la terza dose bisogna prenotarsi, che è meglio, perché se no chiudono e poi se ne riparlerà a febbraio. Non so se ci sia ancora. Grazie per il consiglio, per l'informazione. A te ancora il cambio, un abbraccio a tutti. Ah, vai sul sito, io l'ho prenotato per me, la mia compagna, i genitori, mia madre, mio fratello poco fa. È semplicissimo, basta avere il codice fiscale e il gioco è fatto, dai. Poi ti arriva un messaggio di conferma, lo inserisci, io l'ho fatto dal computer, e una volta che inserisci quel messaggio che ti arriva un codice, ti arriva l'altro messaggio ancora dalla prenotazione. Ciao, buona serata. Ciao, ciao, ciao Franco, ci sentiamo, sì, io l'ho fatto stasera, l'ho fatto, mi hanno prenotato per il 3 gennaio, vabbè, pensa che se tu ti trattino un quarto d'ora, magari per dire a me mi hanno prenotato per l'ora praticamente di pranzo, live, intorno a mezzogiorno e mezzo, una cosa del genere. Se ti trattini 10 minuti, un quarto d'ora, perdi il treno e magari ti rimandano anche di un mese, perché c'è tanta di quella gente in una maniera incredibile. Però c'è da dire questo, che vai lì e te lo fanno ugualmente, ma allora devi fare una fila interminabile. Invece se hai la prenotazione vai per appuntamento e risparmi un po' di tempo d'attesa, tutto lì. Va bene, avanti Franco Sorso. Bisogna prenotarsi per fare la terza, caspita, porra, massa. Va bene, dai. Ciao Natalino, ben ascoltato. Ciao a te Luca, se stai chiudendo, ce ne ascoltiamo le prossimine. Avanti Natali. Ciao Fra, bene sentito. Grazie per me. E io mi sono prenotato stamattina, me l'hanno data alle 4:05. L'appuntamento cazzare 4 e 5 mi tocca uscire, cioè mi tocca sentire già i vicini, già è vicino a casa di Luca adesso. Aspettate, c'è stato un break, avanti break. Sì, segnale 9:15, tendente a 9:20, radio 5 è perfetta. Ciao Gianni, ben sentito. Ma ti dico altre parole, che radio, se puoi dire qualcosa, almeno il codice, senza dire il modello. Sta facendo benissimo, con la potenza della radio questo. Ciao Gianni, fatti consigliare, non avere fretta in tutte le cose, c'è sempre qualcuno più esperto. Saluta Claudio a tutti in famiglia. Vai, chi c'era? Giulio, Natalino e Franco di Sorso. Per i saluti. Ciao Gianni, buona serata, ben ascoltato dopo tantissimo tempo. Ti ho ascoltato, sappiamo, 6:30, 7 modulati. La radio è buona, dai, non è fortissima ma è buona. Va bene così, ci mando avanti Natalino per Gianni. Salutatelo che io non lo sento, già lo sai che c'ho l'antenna bassa, è piena di stazionarie pure, è piena d'acqua. Ah vabbè, allora non so se lui ti ha sentito, comunque Gianni ti saluta anche Natalino, non so se l'ha sentito, lui non ti sente, per cui non può salutarti direttamente. Avanti Franco Sorso. Capra, lo stavo salutando, probabilmente abbiamo schiacciato insieme Giulio e non me ne sono accorto. Niente, dai, ciao Gianni da Muros, ci ascoltiamo tutte le prossimine, dai. Avanti, vabbè. Scusa, mi ha detto un attimo mia figlia. Quanto ti arrivano a Muros a te, Franco? Il segnale era zero, la radio 3. Addirittura zero, pensavo che fosse aperto per forza lui, che strano. No, non è aperto per qua. Qui quando a volte secondo volutamente mi arriva segnale 2, 3, massimo 4. No, arriva più fortuna, tu sei 9,10 con i picchi positivi qualcosina di più, lui arriva a 9,15 con i picchi su positivi e niente a 9,20, non ci arriva però pende. C'è un bel segnale, infatti l'ho sentito sopra, quando stavate parlando, poi vabbè Giulio era più forte e Natalino lo schiaccia, no? Non c'è problema. Comunque la radio, conoscendo quella radio lì, stavo facendo la grande, pensavo non riuscisse a uscire in AM così bene. Ok, chi è arrivato qui, diciamo io, tu, Franco, poi chi c'è? Giulio e Natalino, o sbaglio, altri ce ne sono. Allora scusate, mi prendo io per salutare, dai, io vado per la cena, per cui ci sentiamo domani se coincide. Ciao Roberto, ciao Franco di Sorso, Luca se sia all'ascolto, Franco di Sassari se sia ancora all'ascolto, e poi chi c'era rimasto? Non mi ricordo nessun altro, vabbè, saluto già tutti, comunque io vado in quello che ti ascolto il finalino e dopodiché chiudo. Vai Franco Sorso. Capa, ciao Giulio, buon proseguo, buon tutto, dai, ce le ascoltiamo tutte le prossimine, finite domani. Avanti Natalino. Ciao Giulio, buon tutto, allora alle prossime. Riprendi Roberto. Sì, prima di chiudere Giulio, se ti vuoi la partita c'è il Cagliari alle 9:04 contro la Salernitana. E comunque, buon tutto, buon proseguo di serata, eventualmente ci sentiamo domani se coincide. Ok, vabbè, grazie dell'informazione. Sì. Ma speriamo che riesca a vincere, ragazzi, perché anche il Cagliari è peggio della Juve. Vabbè, comunque, purtroppo non si può sempre vincere. Ci sentiamo, ciao a tutti, chiudo, ciao. Riprendi pure di nuovo, vai. Via, ciao Giulio, dai. Ok, lasciamo un secondino in bianco, se c'è qualcuno nel frattempo che vuole entrare, avanti, che vuole entrare, se no riprende Franco di Sorso. Giulio, vai Franco. Capo. Infatti, vi sapete, avete vegliato qui da lì. No, già non sono juventino, anche se mi dispiace, io quando le squadre italiane giocano all'estero, cioè in Coppa, con le squadre straniere le tifo tutte, può essere anche l'ultima più antipatica di tutte, però le tifo tutte perché portano avanti il coso di colori italiani, al contrario di molti che tirano, speriamo che perda, che se c'è Rubri Modurno, che se c'è... Io mai, da me non mi sentirai mai una cosa del genere, non esiste, sono sportivo più di tutti, perché molta gente è tifosa, poi disprezza le altre squadre. Io mi piace vedere il bel gioco e vita migliore, come dico sempre. Vai Natale. E cappa. E in effetti bisogna essere sportivi. Da, vabbè, io se è che parlano tutti, se no non mi sarei neanche ricordato più che c'era il pallone. Perché a me del calcio non me ne frega proprio niente. Buonasera a tutti, solo per un saluto. Facendo domani, lo detto a Gianfranco, poi non abbiamo avuto modo di concludere, chiamalo tu, di ricordare di passare domani mattina, se riviene bene, poi se passi pure tu andiamo a prenderci l'aperitivo la mattina. Sì, io domani mattina intanto mi devo sentire anche con Marco, magari facciamo un comunque ultime prove, poi aggiorneremo meglio la situazione nelle altre frequenze. Ok, buonasera a tutti i circolari, non so manco chi ci sia perché ero in un'altra banda e mi sono c'era il volume basso. Buonasera a tutti comunque. Ciao, devi fare da bravo. Ricci in bocca, stai ascoltando, no? Guarda che Roberto all'inizio arrivava a fondo scala. Più bene di te arrivi ai nomi. Beh, ci mancherebbe altro. Roberto c'ha l'antenna sopra il tetto, io ce l'ho nel giardino. Dammi il tempo di fare bene le cose, poi vedrai che mi ascolti bene. Ciao. Comunque ciao, Cla. Ben ascoltato. quanti robe? Sì, dai, non ne faccio mania di forza io, le facciamo la fare a quelli che ce lo possono permettere. All'inizio era piena potenza, poi ero con 5 watt e andavo e mi ascoltavano lo stesso, mi avete confermato che ascoltavate lo stesso, per cui non c'è problema, poi mettiamo un'antenna migliore e vediamo un pochettino se riusciamo a farci sentire anche un po' più lontanuccio. Allora Claudio, domani se vuoi passa a passa, se no come dicono dalle nostre parti, prenditela dove dici tu. No, a noi lo dicono anche a te come te querete, capito? Ok, no, la prova che abbiamo fatto, Roberto, per capirci, è perché tu eri convinto che quell'antenna che tu hai già montata non andava bene. Invece non avevo dubbi, va benissimo.